Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti e soprattutto buon anno. Mi auguro che abbiate festeggiato con gioia l'arrivo del 2010 e poi, come si dice, anno nuovo, vita nuova. Siamo pronti per cominciare, ma attenzione, cambierà molto, ma non tutto. Noi vi terremo compagnia come sempre fino alle 12. Allora andiamo subito a sentire gli argomenti di oggi. Voce per conoscerla e per proteggerla. Come scegliere la scarpa da ginnastica? Pupo in viaggio. Sì, oggi parliamo della voce, che ci piaccia o no, è il nostro biglietto da visita, forse ancora più del nostro viso. La voce ci distingue, ci rende più o meno credibili. Sarà capitato anche a voi di smascherare proprio dal tono della voce una bugia. E con la voce possiamo conquistare, sedurre, convincere. Quindi questo è uno strumento potentissimo che dobbiamo imparare a usare, proprio come si fa con uno strumento musicale. Molti di noi ne vorrebbero una diversa e se ne fanno un cruccio. Se questo è il vostro problema, chiamateci, perché qualcosa si può fare per aggiustare, lo dico tra virgolette, la voce. Ma l'argomento che più mi preme è di parlare insieme a voi e ai nostri ospiti della salute della nostra voce, perché anche lei ha un benessere e un malessere. Ad esempio, può capitare che si abbassi all'improvviso, è capitato anche a me proprio quest'anno, che diventi roca, che sia intermittente, che manchi, poi magari per ripigliarsi. Per chi la voce la usa anche per il lavoro, il rischio di consumarla, di sforzarla, di sottoporla a troppo stress è reale. Quindi oggi ci occuperemo della nostra voce, parleremo di sintomi, parleremo di disagi, parleremo soprattutto e cercheremo di fare prevenzione, perché la prevenzione è fondamentale. Oggi affideremo la nostra voce, le nostre corde vocali e non solo alla dottoressa Giovanna Cantarella, che è tornata a trovarci. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Specialista in foniatria e otorinolaringoiatria all'ospedale policlinico di Milano, presso l'unità diretta dal professor Pignataro. È tornato a trovarci il nostro direttore di coro Giovanni Casanova. Buongiorno maestro. Buongiorno Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori. Musicoterapeuta che noi abbiamo conosciuto in occasione di un'iniziativa molto bella, Voci 9, e quindi lei sta diventando ormai anche nei giornali il maestro delle donne, delle mamme, delle donne in gravidanza. Ma pare proprio che sia così, vediamo di continuare su questa strada. In ottima compagnia. Piacevole. Allora, dottoressa Cantarella, lei ci aiuterà con la sua esperienza ad ascoltare la nostra voce con orecchio clinico, direi in questo caso. Quali sono i segnali che ci devono in qualche modo far capire che stiamo abusando della nostra voce, la stiamo sforzando, o magari che è venuto il tempo di prenderci cura di lei? Ma lei mi sta affidando una grossa responsabilità. Confido in lei perché è donna, quindi noi siamo abituate a questo. Grazie, troppo buona. E lei stessa ha ricordato che la voce è lo strumento che ci permette di esprimere, ci consente di lavorare, di avere relazioni sociali, ma anche esprime i nostri sentimenti, la nostra personalità. Quindi, come si suol dire, è un po' lo specchio dell'anima. Quindi lei ora mi dice vuole affidarmi la voce, è un po' come affidarmi un'anima, e come affidare la voce è come affidare la propria interiorità. I disturbi della voce spesso, come ha ricordato, derivano da un uso incongruo delle corde vocali e quindi possono risentire di un uso inappropriato, di un uso continuato incongruo, ma un problema della voce a volte può anche esprimere un disagio interiore. Quindi attenzione, occhio, un problema della voce, quindi una cedine, una riduzione dell'estensione vocale, un'alterazione della tonalità, può esprimere un affaticamento vocale, ma qualche volta è anche il segno magari di un nostro disagio interiore. E cercheremo allora di tirare fuori la voce anche con l'aiuto del maestro Casanova. Maestro, a questo proposito? Innanzitutto vorrei informare i nostri ascoltatori di prepararsi, di tenersi pronti, perché fra un po' magari lavoriamo un attimo con loro. Magnifico, no? Cantiamo. E quindi, cantiamo, facciamo qualche esercizio. Quindi sì. Cercate di mettervi tranquilli, se avete una cintura stretta la slacciate, insomma state comodi, mettetevi comodi. E io concordo molto con quello che ha detto la dottoressa Cantarella, e difatti nei miei workshop incontro spesso, io gli chiamo voglio bene alla mia voce, proprio perché voler bene alla propria voce vuol dire saperla riconoscere ed accettare come parte di sé, in quanto spesso arrivano delle persone con delle voci, appunto come dice lei, gracchianti eccetera, ed è molto delicato. Si potrebbe aiutarli a superare questa voce, ma spesso questa voce è il risultato di una serie di difese che questa persona si è costruita nel corso degli anni, e ci vuole una grande sensibilità anche per togliere queste difese. Bisogna condividere con la persona queste cose. Sì, ci sono delle voci stonate rispetto alla persona che, no, al proprietario della voce. Ci sono uomini grandi e possenti che magari hanno delle voci molto sottili, o donne al contrario. Quindi insomma, la voce è vero, parla, noi parleremo della nostra voce, ma prima, insieme a Carmelo Lauricella, abbiamo deciso di mandarvi la nostra scheda per raccogliere le informazioni importanti. Andiamo a sentirla insieme. Quante volte negli ultimi mesi sei rimasto rauco o senza voce? E per quanto tempo? La tua voce ha perso tono e volume? Ti sembra più piatta, monocorde, stanca? Hai bisogno di schiarirti spesso la voce? Quando parli ti capita di avvertire bruciore alla gola o un senso di tensione al collo? Ti sembra che ti manchi l'aria? Salve Nicoletta, ci scrive Fabio da Cantù. Spesso quando parlo tanto mi manca l'aria. Un problema, la parola è il mio lavoro. Dottoressa Cantarella, quando manca l'aria, noi l'abbiamo messo anche nella nostra scheda. Che cosa significa? Ma può voler dire che il nostro Signore non utilizza bene la respirazione nel parlare, non ha, come si suol dire in gergo, una buona coordinazione pneumofonica. Tendiamo un po', forse per lo stress, perché siamo precipitosi nel parlare, ad utilizzare una respirazione non adeguata, a non usare bene il diaframma, a non dilatare bene il torace, a non inspirare adeguatamente, magari anche a parlare un po' troppo velocemente, quindi senza avere il tempo per rifornirci d'aria. E quindi appunto un cattivo uso della respirazione potrebbe essere una delle cause, ma può anche darsi invece che il nostro Signore che ci ha contattato abbia magari invece già una patologia delle corde vocali, che magari non si chiudono bene, non si avvicinano bene durante l'emissione della voce, e per questo motivo c'è uno sfiato, c'è un consumo eccessivo di aria. Maestro, lei ci aveva detto preparatevi, facciamo certo, gli esercizi, mi occupo della vostra voce, rilassiamo. Io di cinture non ne ho, neanche la dottoressa Cantarella forse, però eravamo però magari già i nostri ascoltatori sì, sì, quindi credo che ormai siano pronti. Certo, siamo tutti sbottonati. Benissimo. Allora, facciamo così. Ci sono 5 punti che mi sono scritto e che potrebbe essere, diciamo, un riscaldamento vocale radiofonico, perché non abbiamo la possibilità di controllarci visivamente per vedere se le manovre che stiamo compiendo siano regolari. Sì. Allora, innanzitutto, per chi ha gli occhiali... Posso invitare anche Angela dalla provincia di Lucca, che è già in linea con noi, che certo, così ci segue insieme ai nostri altri ascoltatori. Angela, buongiorno! Sì, buongiorno, sono già pronta. Ecco, Angela, lei ha chiamato per avere un aiuto, io la metto subito a lavorare. Ok, allora noi siamo pronti. Allora, io userò Angela come cavia, lei è disposta? Parlerò a lei come, insomma, persona che fa l'esercizio, e tutti gli altri. Quindi se Angela non capisce esatto, può urlare, aiuto. Aiuto. Va bene, Angela, stia attenta. Angela, andiamo. Lei ha gli occhiali? Ha gli occhiali? Ecco, allora se la prima cosa li tolga per cortesia, ecco, tanto lei è in un luogo dove non si perde, vero? No. Ecco, quindi li tolga e lasci un attimo l'occhio che si abitua a vedere un pochino meno, e piano piano le sue orecchie impareranno ad ascoltare qualcosina di più. Lei sa che le persone non vedenti sviluppano una facoltà uditiva molto più sensibile, no? Quindi si accontenti di vedere un pochino meno. Poi si dovrebbe sedere a un tavolo comoda. Sì. Ce l'ha un tavolo dove stare, seduta? Sì, sono già al tavolo. Benissimo. Sono già pronta. Allora, si appoggi con la sua, col suo addome al bordo del tavolo. Possiamo farlo anche noi. Potete, no? Farlo anche voi. Va bene, sì. Dottoressa, andiamo. L'ideale sarebbe avere un tavolo il cui bordo sta all'altezza del suo ombelico, il che vorrebbe dire regolare l'altezza della sedia o abbassare il tavolo. Insomma, non prenda la sega e non seghi le gambe. Sì, comunque, pazienza. Benissimo. Allora, adesso a questo punto si tratta di respirare. Mentre lei prende fiato, è molto importante che tenga i gomiti appoggiati sul tavolo e si appoggi sui gomiti. In questo modo le succederà che non le sarà possibile alzare e inarcare le spalle mentre prende l'aria. E questo è molto importante perché le respirazioni alte apicali provocano poche entrate d'aria e soprattutto, come meglio di me può spiegare la dottoressa, le tensioni a livello della... Allora, lei è pronta, inspira, prende l'aria come una spugna che si gonfia da sola e sentirà che il suo addome preme leggermente contro il tavolo. Certo. È vero? Sì. Ok, adesso emettiamo l'aria in questo modo, psss, come quando buca una gomma della macchina. Ah, mi piace questo. Sì. Naturalmente nel fare questo, psss, continui a mantenere una certa pressione contro il bordo del tavolo, non si asciughi all'interno, ma spinga ancora lentamente. Psss, in questo modo sta dando degli ordini particolari al suo diaframma che non andiamo a tirare in ballo. Quando ha fatto questo, adesso si prende la, se non ha il fondotinta, si prende con le mani si prende il volto. Sì. Se lo accarezza, il che non fa male, perché che qualcuno ci accarezzi il volto è sempre piacevole, e se lo allunghi verso il basso. E facendo continuamente questo tipo di respirazione contro il tavolo, provi a pensare ad una vocale A, ma che non sia la vocale A, quella che lei usa per parlare, ma che sia come una piccola espressione tra la M e la M. Così, ascolti. In modo tale che questa A sia delicata e non sia in attacco così A, ha capito? Non dà quel colpo e soprattutto la sfuma alla fine. Quindi un po' mamma, diciamo. E certamente. È non a caso. È un po' mamma, è un po' il suono om orientale. Un mix. È un mix. Noi ci fermiamo qui perché... Ci fermiamo qui intanto, dopo... Angela. Devo dire che proprio devo recuperare la voce perché ogni volta che attacco la mia voce, spesso ho la voce rauca. Questo probabilmente è derivato dal fatto che insegno da 35 anni e all'inizio della mia carriera di insegnante avevo una voce normale, diciamo fra virgolette, avevo una buona estensione, mi faceva cantare, quindi cantavo, non dico benissimo, ma insomma mi permettevo anche di cantare le canzoni di Mina. Oggi non posso cantare più nemmeno le canzoni dello Zecchino d'Oro, perché ho un'estensione di voce limitatissima, devo andare necessariamente in falsetto e a volte ci vado anche mentre parlo. Mi accorgo che quando la mia modulazione arriva, diciamo, a delle note piuttosto elevate, devo addirittura ricorrere al falsetto. Inoltre questa voce spesso mi diventa gracchiante quando alzo la voce, gracchio. La mattina poi non se ne parla e purtroppo nel corso sempre degli anni di insegnamento ho sviluppato anche una tensione molto forte sullo stomaco che spesso mi fa male. Quindi volevo sapere, la domanda era questa, posso a quest'età, 56 anni, posso fare qualcosa per migliorare la mia voce anche al di là della scuola, ma esclusivamente per me? Per il mio benessere. Dottoressa Cantarella, sentendo la voce di Angela, perché lei ha l'orecchio clinico, e anche da quanto Angela ci racconta, è proprio un cattivo utilizzo della voce o c'è dell'altro? Ma sicuramente Angela chiede: posso fare ancora qualcosa? Io penso che lei debba fare qualcosa per la sua voce, lo deve a se stessa. Sicuramente qualcosa andava fatto molto tempo fa, e nel caso dei professionisti della voce, soprattutto degli insegnanti, bisognerebbe pensare a dei corsi di formazione prima che inizino l'insegnamento, proprio per prevenire la patologia che lei ha sviluppato. Angela ha usato la voce per tanti anni e probabilmente con il tempo si è venuto a creare un edema, un ispessimento, un rigonfiamento delle corde vocali che comporta, come Angela ci ha molto ben descritto, una riduzione dell'estensione e soprattutto una perdita delle note più acute. Ecco perché non riesce più a cantare Mina. Un'altra cosa caratteristica di questo ispessimento dovuto al surmenage vocale è una perdita del pianissimo, cioè la difficoltà di parlare o cantare ad intensità molto bassa. Tipicamente i pazienti mi dicono: urlo benissimo, ma se devo parlare piano mi si spezza la voce. E poi ho perso le note più acute e ho perso la capacità di modulare, quindi ho perso la melodia. Ma qualcosa si può fare, come? Si recupera. Si recupera, si può iniziare una terapia logopedica, si può migliorare soprattutto l'uso della respirazione. Maestro, io mi chiedevo se il canto, dato che le persone che cantano anche a livello amatoriale, non parliamo di professionisti, devono in qualche modo lavorare sulla voce, sul diaframma, e col canto può essere paragonato ad una sorta di palestra terapeutica per la voce, o invece si rischia con il canto di portare ulteriore affaticamento alla voce? Ma vede, la questione sta nel fatto che nella voce parlata, tendenzialmente soprattutto nella nostra società odierna, si tende a parlare con voce monocorde, perché la voce monocorde tende a mascherare le proprie emozioni e tende a mascherare la propria individualità, la propria personalità nascosta, quella più autentica, che viene fuori invece in alcuni momenti della nostra giornata, quando ci arrabbiamo, quando ci siamo per addormentare, eccetera. Questa voce monocorde porta tutta la nostra attenzione sul contenuto di quello che stiamo dicendo e non su come lo diciamo. Allora, un consiglio che io mi sento di dare alla nostra ascoltatrice e più in generale a chi ci sta sentendo è questo: quando noi stiamo parlando, ricordiamoci che noi stiamo anche cantando. Perché l'uomo, la voce dell'uomo deriva da una voce cantata e parlata assieme all'inizio del tempo, e quindi recuperare il piacere del canto all'interno della voce parlata e non avere paura di quei falsetti, trovare il momento in cui la voce sale, c'è piacere nel sentire la propria voce che gioca, questo affascina chi ascolta e fa sì che noi possiamo parlare anche più sottovoce e possiamo godere della nostra voce e far godere gli altri. Dottoressa Cantarella, quindi proviamo a cantare parlando, parlare cantando? Ad usare meglio la melodia della voce. Ma direi comunque, nel caso della signora Angela, sarebbe opportuno prima di tutto una buona valutazione foniatrica ed una terapia logopedica per ridurre lo sforzo, il carico vocale. E un'altra cosa che consigliamo in genere agli insegnanti che hanno problemi di affaticamento è l'uso del microfono. Un banale microfono con una cassa portata di amplificazione portata in vita, come quelli che usano per esempio le guide turistiche, sì, può ridurre grandemente lo sforzo vocale. Quindi l'insegnante può utilizzare una voce di conversazione e farsi sentire da tutti in classe semplicemente regolando il volume dell'amplificatore. Quindi questo può essere un espediente pratico, rapido, in attesa di iniziare una terapia logopedica per cominciare a ridurre lo sforzo vocale. E poi a casa cerchiamo di urlare meno con... Maestro. Apprezzo tantissimo il discorso della formazione di cui ha parlato la dottoressa per gli insegnanti, eccetera, ma vorrei ricordare che la prima formazione inizia in grembo. Sarà che io sono un po' patito, un po'. Sì. Ormai un po' è di il parte. Suo chiodo fisso. Sono un po' di parte, ma un bambino in grembo. Di pancia, direi. Sono un po' di. Inizia ad ascoltare la voce della mamma in grembo e ne coglie le qualità. E ne coglie gli aspetti importanti, e quindi è importante per le mamme e per i papà, soprattutto in gravidanza, usare la voce in modo musicale. E noi forse andiamo ad un papà. Gilberto, buongiorno. Signora, sì, sono Gilberto. Eccola, dalla provincia di Milano. Esatto. Volevo chiedere questo: io ho un bambino, Mattia, di 9 anni. Sì. E da 3 o 4 anni ha iniziato a avere la voce bassa, inizialmente verso la fine dell'anno scolastico. E poi magari sempre di più. Abbiamo fatto un paio d'anni fa un esame alle corde vocali dove hanno riscontrato dei piccoli gallettini. Sì. Ci hanno detto che probabilmente era un fattore emotivo e ci hanno dato alcune indicazioni su come respirare, aiutarlo a respirare col diaframma e magari fare alcune pratiche di yoga. Volevo chiedere alla dottoressa se riusciva a darmi qualche ulteriore indicazione eventualmente su questo. Dottoressa. Senz'altro, volentieri, sicuramente vi sarà stato detto di non preoccuparvi. Il bambino ha dei piccoli noduli delle corde vocali che vengono comunemente chiamati dei calletti, appunto derivano spesso da un uso un po' forzato, diciamo, della voce. Ma come vi è stato suggerito, vi è spesso anche un aspetto psicologico nello sviluppo dei noduli. Mi piace citare una frase di un grande foniatra e scrittore brasiliano, Pedro Bloch, che ha detto, tra l'altro riferendosi proprio ai noduli dei bambini: non affrettatevi ad asportare chirurgicamente i noduli, poiché essi non sono tanto delle corde vocali quanto dell'anima. Ed è una frase bella, che io trovo meravigliosa e che tra l'altro applico nelle mie valutazioni anche alla valutazione dell'adulto. Io credo che la prima cosa più importante da fare sia dare in casa, in famiglia, un buon esempio vocale, poi parlare con gli insegnanti in modo tale da cercare di mitigare un po' l'uso improprio della voce a scuola o nell'attività sportiva, ma per tranquillizzarla voglio anche ricordarle che i noduli del bambino tendono a risolversi comunque spontaneamente all'epoca della pubertà, quando vi è un grosso sconvolgimento nella struttura delle corde vocali e quando vi è una discesa considerevole della fondamentale, cioè della tonalità della voce, il che porta al riassorbimento dei noduli. E poi in età adulta i noduli sono proprio un problema tipicamente femminile. Sì, direi che il nodulo è probabilmente, si viene a formare in quel punto delle corde vocali nel quale la vibrazione è più ampia e colpisce quasi esclusivamente le donne. Nel caso degli uomini viene colpito chi canta in falsetto o il tenore che va su delle frequenze molto elevate, perché la formazione del nodulo sembra correlata proprio alla frequenza di vibrazione. Una corda vocale femminile viaggia a 200-220 cicli al secondo, quella maschile a 100-120 nel parlato, quindi facciamo un lavoro doppio e quindi siamo più soggetti a questo tipo di patologia. Facciamo un lavoro doppio. Voglio salutare il mio amico Franco Lisi, che è coordinatore di dialogo nel buio all'Istituto dei Ciechi di Via Vivaio di Milano. Franco, ciao. Buongiorno a te Nicoletta, buongiorno ai tuoi illustri ospiti e a tutti i radioascoltatori. Senti Franco, quali informazioni prendi tu dalla voce? Sì. Il primo impatto. Se mi consenti soltanto pochi secondi per fare una premessa generale, mi piace molto l'idea della voce intesa come muscolo da allenare, come voce specchio dell'anima. Io ricordo che, se non è già stato detto, che la voce oggi assume un significato molto molto importante in questa società dell'immagine. Voi pensate che sulla comunicazione, che raccoglie fattori, elementi visivi, la voce intesa come veicolo di contenuto, di messaggio, e come modo, lo diceva molto bene prima il maestro, come paraverbale gioca il 45%, quindi è assolutamente un elemento da valorizzare, in qualche modo, quanto lo si faceva prima, in attesa della prima ancora che avvenisse la parola scritta, no? Da Omero in qua. La voce significa, in un contesto anche democratico, dare voce, significa dare voce al confronto, e ovviamente la voce impone un ascolto. Io parlo perché ho ascoltato prima, ma perché qualcuno mi ascolta ora. Infatti il buon Dio ci ha dato una bocca e due orecchie, no? Una bocca per parlare e due orecchie per ascoltare. Ecco che la voce da qui scatena tutta quella che è l'immaginazione. Immaginare un'immagine equivale a 100 parole, si dice, però l'idea, l'immaginazione, guardare dentro, quindi ascoltare una voce, equivale a 100 immagini. E la voce allora consente questo, e consente quello che dicevi tu, quello di costruirsi una prima impressione. In qualche modo la voce dice a tutti, ma sicuramente al non vedente, perché ovviamente non è influenzato dall'immagine, dalla vista, quindi gioca soltanto su questo aspetto, consente di capire, di immaginare, di intuire l'abito, in suol di metafora, come sei vestito, no? Quindi ci dice ancora un po' come la stretta di mano, un po' dalle prime parole, chi sei, che cosa pensi, il timbro, il tono vocale, il livello dell'espressività, quindi portare